scusate, volevo solo dire una cosa. Scorreranno delle diapositive che ci ha dato Elvio, che abbiamo trovato poi in rete. Sono state messe insieme più o meno per argomento, ci sono i proclami, ci sono le barricate, ci sono le rovine, ci sono tutta una serie di... niente, scorreranno senza commento. La Comune di Parigi è una straordinaria insurrezione del popolo di Parigi. Durerà solo 72 giorni, dal 18 marzo al 21 maggio del 1871, e subirà la feroce repressione della Settimana di Sangue, dal 21 al 28 maggio 1871. Le classi lavoratrici di Parigi, gli operai, gli artigiani, i piccoli commercianti vivono in condizioni molto difficili. La povertà è spesso estrema e l'orario di lavoro è di circa 11 ore al giorno. La situazione politica è drammatica. Il secondo impero di Napoleone III è crollato in seguito alla sconfitta nella guerra contro la Russia e l'impero tedesco viene proclamato a Versailles il 18 gennaio 1871. La popolazione parigina, che ha subito un durissimo assedio da settembre 1870, non accetta la resa. Si arruola in massa nella Guardia Nazionale ed elegge i suoi ufficiali. La nuova Assemblea Nazionale eletta è prevalentemente monarchica e il governo guidato da Thiers fuggono da Parigi, che è per loro la capitale dell'idea rivoluzionaria, e si stabiliscono a Versailles. Per la prima volta nella storia si può parlare di governo operaio, comprende tutte le tendenze politiche, socialisti e anarchico-repubblicani, i giacobini, i centralizzatori, i radicali, i sostenitori dell'autonomia municipale, i blanchisti, gli avanguardisti, i collettivisti, l'Associazione Internazionale dei Lavoratori, i prudoniani, gli indipendenti, e tutti voteranno tutte le misure sociali e guideranno la lotta comune contro i Versailles. Io farò la traduzione dall'occitano di questo primo canto, che si intitola Libertà. Tu che sei ardente e nuda, che hai i pugni sui fianchi, tu che hai voce di tromba, suona oggi, suona a pieni polmoni, o buona musa. Sei la musa dei poveri mendicanti. Il tuo volto è nero di fumo, i tuoi occhi sentono la fucilata, tu sei un fiore della barricata, sei la Venere. Tu guidi i morti di fame, quelli che non hanno la camicia, i miserabili che vanno scalzi e senza pane e senza tetto, hanno le tue carezze. Ma gli altri ti disgustano di trovarsi per venire e le loro famiglie, i nemici della povera gente. Perché il tuo nome, tu, santa fanciulla, è libertà. O libertà, come sei bella, i tuoi occhi brillano come un fulmine e incroci al di sopra di ogni malvagità le tue braccia forti come asce sul tuo seno. Ma poi dici parole strontate, tu che sei dolce delle stelle, e ci turbi, o bella, quando baciamo, chiudendo le palpebre, coi piedi nudi. Tu che sei potente e aspra, tu che brilli nella luce, tu che hai voce di tromba, suona oggi, suona a pieni polmoni, o buona musa. L'ora è venuta. Tu che sei sardero, Barrotar le Ascoltano gli oratori, discutono e fanno pressione sui funzionari eletti. Durante i 72 giorni del Comune vengono creati più di 70 nuovi giornali. Ai lavoratori di tutti i paesi, noi protestiamo contro la sistematica distruzione della razza umana, contro lo sperpero dell'oro del popolo che non deve servire che a fecondare la terra e l'industria, contro il sangue sparso per la soddisfazione odiosa della vanità dell'egoismo, delle ambizioni di monarchi avidi e insaziabili. Sì, con tutte le nostre forze noi protestiamo contro la guerra, come uomini, come cittadini, come lavoratori. La guerra è il risveglio di istinti selvaggi e di rancori nazionali. La guerra è il mezzo adoperato dai governanti per soffocare la libertà di tutti gli internazionalisti francesi. Amici, abbiamo la Repubblica! Il passato oscuro sta per finire. Tutti in piedi! È l'ora del coraggio. Sarà forte che andrà incontro alla morte. A noi, gli audaci, nei momenti più difficili servono intelligenza pronta e audacia, inaudita. A noi giovani. I giovani, i temerari, gli arditi, ribelli, saranno il nostro esercito. Idea e azione devono essere libere. Non abbiate soggezione. Non tergiversate, sbarazzatevi una volta per tutte dei vecchi collari e dei vecchi guinzagli. Questo è il consiglio dato l'altro giorno dal nostro amico Jogeneu, e questo consiglio è la nostra salvezza. Con i fucili, le sparò, gli colpi di mitraglia, la sua bandiera calpestò e poi la sdraia. L'infame borghesia la volle veder morta, malgrado tutto si vedrà, la comune non è morta, malgrado tutto si vedrà che la comune non è morta. Come si va prati affacciato ad abbattere pini, i bersagliesi massacrati, anche donne e bambini. Sono 100.000 morti già, ma questo cosa porta? Malgrado tutto si vedrà, la comune non è morta, malgrado tutto si vedrà che la comune non è morta. Assassinato a Novarla in Florando il Valmigliere, Ferreri, Gottonimo, Alenzo, tutti al cimitero. Credevano di smembrarla, recidere la orta. Malgrado tutto si vedrà, la comune non è morta, malgrado tutto si vedrà che la comune non è morta. Per far tacere la città vollero far la pelle anche ai feriti di ogni età, persin sulle barelle. Il sangue intuppava gli abiti, scorreva sotto ogni porta. Malgrado tutto si vedrà, la comune non è morta, malgrado tutto si vedrà che la comune non è morta. tutti coricarono vergogna. I mazzin du champenin umar l'han fatta proprio sporca. Malgrado tutto si vedrà, la comune non è morta. Malgrado tutto si vedrà che la comune non è morta. Già la spada di Damocle gli cala sulla testa, ai funerali di Valle saranno tutti in bestia. Perché eravamo in tanti a fargli ultima scorta, e questo fatto prova già, la comune non è morta, e questo fatto prova già. La comune non è morta, e rabbia e forza ancora abbiamo, ne sono più di alcune, perché sia tempo di gridare viva la comune. E questo provare venduti tra vittori di ogni sorta, che si sapranno presto. La proclamazione della comune fu magnifica. Non era la festa del potere, era la cerimonia del sacrificio. Sentivamo di essere gli eletti pronti alla morte. Il pomeriggio del 28 marzo, sotto un sole splendente che ricordava l'alba del 18, il 7 germinale, anno 79 della Repubblica, il popolo di Parigi, che il 26 aveva eletto la propria comune, fece il suo ingresso nel palazzo comunale. Un oceano umano scorreva sotto le armi, baionette alte, spesse, come le spighe nel campo, squillar di trombe e rulli sordi di tamburo battuti da due inimitabili tamburini di Montmartre, gli stessi che svegliarono Parigi la notte che si introdussero i prussiani. Le bacchette spettrali e i loro pugni di acciaio evocano suoni sinistri. Questa volta però le campane erano mute, il rombo pesante dei cannoni a intervalli regolari salutava la rivoluzione, e le baionette si abbassavano davanti alle bandiere rosse che a gruppi circondavano la statua della Repubblica. In cima un gran vessillo rosso. I battaglioni di Montmartre, di Belleville, la Chauvel, avevano le loro bandiere sormontate dal berretto frigio. Sembravano le recluse del 93. Si alzò una voce sola: viva la comune! I tamburi batterono la battaglia, i cannoni fendettero i raggi del sole. In nome del popolo disse Ranvier: la comune è proclamata, viva la comune! Quanto lottarono le donne del 71, tra i combattenti più implacabili che si opposero all'invasione e difesero la Repubblica come l'aurora della libertà, si trova un gran numero di donne. Tutti ovunque, sulle barricate, nelle ambulanze, nei comitati di vigilanza e nelle officine municipali. Il pentolone rivoluzionario della signora Lemel e della Camera Sindacale dei Legatori fu un vero sforzo di devozione e di intelligenza per tutto l'assedio. Impedì a migliaia di persone, non so come, di morire di fame. Le donne non si chiedevano se qualcosa fosse possibile o impossibile. Se c'era bisogno, riuscivano a farlo. Lo straordinario germogliare di idee nuove li sorprese e li atterrì. L'odore della polvere da sparo gli disturbò la digestione. Gli facemmo venire i brividi e non ce lo perdoneranno mai. Jean-Paul Clément. Sì, ma tutto può cambiare. I brutti giorni finiranno. E occhio alla vendetta, quando tutti i poveri ci si metteranno insieme. Yeah. Parigi è stata liberata, la battaglia è finita. Oggi l'ordine, il lavoro, la sicurezza stanno per essere restaurati. E Thiers telegrafò ai prefetti. Il suolo è disseminato dei loro cadaveri. Questo spettacolo spaventoso servirà di lezione. Sulla Senna, una lunga scia di sangue segue il filo dell'acqua e passa sotto il secondo arco delle Tuileries. Questa scia di sangue non si interrompe mai. Amerò per sempre il tempo delle ciliegie. Sono quei giorni che tengo stretti al cuore, una ferita aperta. Mi dessero anche in sposa la fortuna, non basterebbe a placare il mio dolore. Amerò per sempre il tempo delle ciliegie e quel ricordo che porto nel cuore. Je veux Clément, cimitero di Dio. La patria tua quale è? belle cose.